in Viale Trastevere, davanti al Ministero dell'Istruzione. Siamo con un lavoratore ex LSU, cioè ex lavoro socialmente utili, che di fatto in questo momento sono i lavoratori e le lavoratrici che si occupano delle pulizie delle scuole, che questa mattina hanno raggiunto Roma per una protesta per i tagli del loro orario di lavoro e quindi conseguenzialmente del loro salario. Dico bene? Sì, la presentazione è tutta giusta, e scuso che io sono il rappresentante dei Cobas di Brindisi e non sono un ex LSU, ma stiamo lavorando insieme agli altri tanti altri lavoratori ex LSU della nostra città, della regione Puglia, in modo particolare, affinché questa manifestazione, che viene dopo due anni che le organizzazioni confederali, che il Ministero sapevano già della fine che doveva essere fatta a questi lavoratori, in poche parole, si ricorre già due anni fa alla realizzazione di una gara Consip, di quelle che abbiamo visto il report, che praticamente taglia l'orario di lavoro ai lavoratori ex LSU ADA operanti nel settore delle pulizie delle scuole, soprattutto del sud. E quindi siamo oggi, perché hanno insistito i lavoratori? Perché i lavoratori pensano che siano gli ultimi giorni in cui ci sia la possibilità reale di poter bloccare significativamente questo processo di dimezzamento delle ore di lavoro. Anche se la convenzione Consip è già in grado di funzionare, il governo, in tutte le riunioni fatte in questi mesi, non ha portato un euro in più alle richieste, appunto, che erano state fatte. Quest'estate c'era già stata una grossa manifestazione, oggi dovrebbe essere ugualmente grande, ma con l'aggiunta che il governo ha continuato a scegliere di non mettere nulla sul piatto, di operare con tagli, così come in questo settore, così come in tanti altri, ma in questo lo si avverte molto di più, perché certamente sono stipendi con contratti fisi e multiservizi, che significa che già con 35 ore che stanno realizzando prendono 700-800 euro, andremo alla metà di persone che, appunto, per andare a lavorare si spostano di 20, 30, anche 40 chilometri ogni giorno ad andare e a tornare, quindi i soldi andrebbero giusto per la benzina. È un dramma quello che stiamo vivendo insieme a questi lavoratori. Cercheremo di dare che cosa? Un indirizzo, così come i lavoratori sono riusciti a chiedere alla Regione Puglia, che si fa portavoce anche questa mattina delle richieste unitarie, ma soprattutto che nascono dalla lotta dei lavoratori, di bloccare il tutto, di bloccare questa gara e di pensare ad altro. Ma per noi, ecco, il pensare ad altro è una giusta stabilizzazione. Non è certamente chiedere l'elemosina ai vari governanti, non è certamente chiedere il soldino in più per dire facciamo un'ora in più rispetto a quelle che ci sono state tagliate. È veramente arrivato il momento di unire questa lotta in un grande fronte, ed è quello che speriamo di realizzare stamattina, se riusciamo a dare una spinta in avanti a questa manifestazione e appunto alla volontà dei lavoratori, che sanno che siamo alle ultime battute, che è necessario spingere in modo forte e convinto. Sì, anche perché una stabilizzazione di questi lavoratori, di queste lavoratrici, significherebbe anche, oltre insomma a una richiesta del tutto legittima da parte loro, significa anche restituire un servizio decente alle scuole, che a cui vengono tagliate sempre di più le ore di chi le pulisce. Ma addirittura le convenzioni Consip ci hanno insegnato che poi il trucco è dietro l'angolo, che magari fanno finta di risparmiare, ma poi in effetti gli unici poi a ingrassare saranno sempre soltanto le ditte, costruendo ancora ulteriori margini di guadagno, ma facendo finta di risparmiare. Quindi le scuole ne hanno bisogno di pulizie, hanno bisogno di tutto queste scuole, anche di poter stare in un ambiente sano e quanto migliore possibile, e quindi di loro c'è proprio la necessità. Senti, la protesta come si articola? C'è un corteo e poi ci sarà un presidio davanti al ministro? Noi non abbiamo, per essere chiari, non abbiamo partecipato a questo sciopero, che secondo noi, a questa manifestazione, che secondo noi è fatta solo per perdere tempo. Era necessario venire qui immediatamente, un gruppo di noi sta già lavorando con il camion e con tutto il resto, con l'amplificazione, affinché appunto si trovi preparati all'arrivo di altri, appunto, di tutto il corteo, ma già c'è già più di qualcuno che è venuto direttamente qui, che non ha accettato appunto di fare un corteo che non aveva nulla di buono. Quindi l'invito è a venire Viale Trastevere davanti al Ministero. Viale Trastevere, sì, di venire a Viale Trastevere e stare qua. Insieme con noi, già a sostenere appunto la lotta. Va bene, i microfoni di Radio Onda Rossa ovviamente sono aperti, fatevi sentire d'accordo. Anche da qua. Va bene, poi ti faccio chiamare da un rappresentante dell'SU di Manfredonia, che appunto è molto preparato sull'argomento e che saprà chiarire anche meglio di me cosa sta avvenendo. Ti ringrazio. D'accordo, ciao. Ciao, grazie. Ciao.